ascolta. Cappa, vieni avanti. Ok, mi ascolti con questo? Ehi, ti ascolto. Qua segna Santiago Valle. Sì, allora già si fa sentire, ho dato il microfono sempre alla... lo sbarbiero, per cui che cosa se ne sono molto distante qui. Quindi si fa sentire, ok, non lo accendo mai, non mi interessano, ho pensato con questi 23 canali, quanto l'ho fatta, non, anche se mi vanno poco, però se si vanno molto adesso a farli sentire che sono funzionati, tutto lì, se il titolo mi interessa tanto, ma altrimenti. Ehi, comunque qua non è un granché la mia trasmissione, lo sto vedendo qua. Solo perché il fatto per cui c'è delle scariche, l'antenna è dovuta sicuramente a qualche casino del cavo, o non lo so. Bisogna avere qualsiasi sull'antenna, non c'è più tanta acqua, ci sono sempre la scarica, si era tutti i giorni. Ecco qua, ma chissà... smettere, ma questo indicatore mio di watt poi non è un po', non è un granché, eppure mi puzza un po' la cosa, ma vabbè, no, dico per roba mia e non per roba tua, si abbassa addirittura, praticamente non sale più di tanto, vabbè, da pazienza. Bella modulazione anche. Ogni tanto mi sei mancato, Marco, e ti iniziamo a movimentarlo qui. Mi sa che il problema è qua, però.